Il Frank passò un paio di volte con il muletto, ma ci ignorammo. Sperai che il reparto forestiero lo avesse neutralizzato. Come previsto, gli avevano rinnovato il contratto. Alla macchinetta del caffè si era intrattenuto per una ventina di minuti con tre ragazze, due culi preziosi degli uffici amministrativi e una logistica. La logistica pareva avere una discreta confidenza. Aveva il naso adunco e il seno piccolo, ma poteva vantare un telaio aggressivo e un'altezza oltre la media nazionale. Lo presentò alle altre due. Il Frank doveva essere piuttosto popolare in paese. Di sicuro partiva con buone credenziali per scopare in azienda. In questo campo è importante partire bene, sfruttare il fattore novità. La circostanza che fosse stato espulso da una scuola e che avesse distrutto un paio di auto negli ultimi mesi ne aumentava la mitologia. Se ti giochi bene gli aneddoti sull'alcol e sulle patenti ritirate, tieni banco. Ai miei tempi pochi alcolisti erano i pazzi del paese, vecchi emarginati e vagabondi. Se eri giovane e duro, ti ficcavi un ago nel braccio illuminato da un accendino Bic o da una lampadina. Una volta rimasi al buio, il fascio di luce si era diretto al cielo. Il ragazzo addetto all'illuminazione era svenuto al primo risucchio di sangue, altro che happy hour. Oggi più bevi più sei regolare. Anche questa è restaurazione. È una regressione clamorosa che ci riporta alla civiltà contadina e montanara. Sei un vero uomo se tieni l'alcol, se cadi nelle stesse identiche cazzate dei tuoi antenati, se non apporti modifiche, se annulli le frizioni tra generazioni. Il Frank suonava anche in un gruppo post-punk, il che giustificava il fatto che ascoltasse una radio specializzata in easy rock. Mi girai verso il mio compare che stava seguendo la scena alle macchinette e aveva capito il mio umore. «Chi è quel fighetto con le segretarie?» «Un contratto determinato, lavora sul muletto, alle catene.» «Se avete il reparto chiuso, perché gli hanno rinnovato il contratto?» «Non so, dimmelo tu che leggi un sacco di gialli. Pare che un paio di nuovi siano stati classificati come insostituibili.» «È una puttanata. E il sindacato?» «L'hanno bevuta, tutta ad un fiato. Comunque è una cassa integrazione controllata, solo un piccolo rallentamento. Le linee non sono nemmeno ferme del tutto. Le linee del Ferrari Maserati funzionano. Ci sono una decina di ragazze, fanno un po' di produzione e un po' di manutenzione straordinaria. Pare che domani torniamo tutti di là. La crisi, quella vera, arriverà.» «Pensi che riuscirà a scoparsi la tipa della logistica?» «Hanno molta confidenza, forse l'ha già fatto. Sarebbe un buon precedente per scoparsi le altre due.» «Invidia?» «Boh, sì, un po'. E tu?» Le scatole erano lunghe circa un metro. All'estremità erano poste due fessure a forma di largo sorriso. Servivano a maneggiare agevolmente i kit dalla rugliera ai pallet posti alle nostre spalle. Senza rendermene conto, strinsi il cartone fino a lacerarlo. Il mio compare non commentò. Aprimmo un'altra scatola e togliemmo il materiale. La scatola rotta andava messa nel contenitore «materiale di scarto», che io stesso, in tempi remoti, avevo colorato di rosso con una bomboletta spray. Ora il rosso stava sbiadendo e declinando all'arancione, ed il materiale era rimasto ale. Detestavo ogni sorta di bricolage, ma non potevo sottrarmi a questi compiti. Prima delle visite ispettive tutto era sottoposto a restyling. Non ci eravamo accorti di avere Meneghini, detto Mengele, alle spalle. Il capetto del reparto ci stava fissando interrogativo. Il mio compare, distinto, mi coprì. «Era così, l'abbiamo trovata rotta.» «Vi tengo d'occhio a voi due.» «L'ho rotta io, problemi? La paghiamo meno di un euro al cartonificio fiorentino. Se i nostri buyer avessero più iniziativa troverebbero anche fornitori meno costosi.» «Ti metti a fare il fenomeno adesso? Non è un po' tardi? Guarda che di qua stai sul cazzo a molti e mica solo ai capi. Tu finisci male, tu finisci allo stampaggio a fare i turni. Adesso continuate e tu non dire balle.» Stavo peggio del solito, ma non potevo mettermi in malattia. Sarebbe sembrata una ritorsione al rimprovero. Nei bagni dei reparti non ci sono gli specchi. Già un paio di persone mi avevano chiesto se avevo l'influenza, consigliandomi di provarmi la febbre. Dovevo avere un aspetto pessimo. Passò di nuovo il capetto che si dirigeva verso il suo ufficio e arrivò il Frank, senza preoccuparsi di intralciare il passaggio degli altri mezzi. si fermò a meno di un paio di metri da me. «Ciao, vecchio! Oggi va bene, no? Di qua non hanno mai fatto un cazzo. È meno dura che alla catena!» Il mio compare lo guardò male. Io continuavo a contare le etichette che ci servivano per la commessa. Passarono anche i tre culi impiegatizi che cercarono di attirare la sua attenzione, ma non mollava. «Guarda che non te la devi prendere. A volte sono scemo, ma tu mi stai simpatico. Ti ho fatto solo qualche test. Ti stimo. Sei l'unico qua dentro a sta fogna. So davvero un sacco di cose su di te. Anche a me stanno un po' sul cazzo quelli come mio padre. Preferisco gente bruciata come te. Stai bloccando il passaggio. Vai a fare in culo da un'altra parte.» «La risposta è esatta. Così ti voglio, duro e puro. Io e te dovremmo organizzare qualcosa qua dentro. Pensaci, vecchio, pensiamoci. Pensiamo a qualcosa di forte per queste bestie. Qualcosa che si ricorderanno, fargliela pagare. Con la faccia che hai, mi sa che non hai niente da perdere. Io stamattina sono già partito con uno scherzetto.» In quel preciso momento, il capo dei servizi generali si affacciò sulla porta che si apre sul corridoio degli uffici. Corse verso l'uscita che si apriva verso il piazzale tra il Building 1 e il Building 2. Seguivano due manutentori in graziella. Non replicarono alle battute degli operai sparsi tra le file del magazzino. Vedere uno degli uffici correre dà sempre adito a prevedibile sarcasmo. Dopo alcuni minuti si materializzarono tre ragazze della linea Ferrari Maserati. Parlottavano animatamente allo stato brado. Vennero avvicinate da un paio di spie locali che avevano avvertito qualcosa di anomalo. Lo stabilimento di Pomigliano dell'Alfa Romeo aveva rallentato gli ordini, ma a Maranello si produceva a pieno ritmo. Tutti i giorni almeno 60 clienti acquistavano una Ferrari. Doveva essere successo qualcosa di grave per sospendere la produzione. Un istinto primordiale mi fece volgere lo sguardo verso le macchinette del caffè poste dalla parte opposta del capannone rispetto a dove si stava svolgendo l'animazione. Il Frank se ne stava solo. Sorrideva dentro a un bicchiere di plastica, ne addentava l'orlo. Aveva gli occhi spiritati e felici di un bambino matto che ha appena fatto una marachella e aspetta la punizione della mamma, che non ci sarebbe stata. Le voci mi arrivavano sfilacciate. La macchina di collaudo che testa funzionalmente i gruppi assemblati era morta improvvisamente. A nulla erano valsi i primi tentativi di rianimarla dei tecnici del manufacturing. A volte capitano piccoli problemi di comunicazione tra il software e le connessioni elettriche, ma di norma un accendi e spegni e un reset pongono rimedio. Tutto si risolve in pochi minuti mentre le operaie parlottano, ridono e prendono fiato. Evidentemente il guasto doveva essere sembrato subito anomalo e si era aperta una frenetica attività di problem solving. Non si possono provocare mancate spedizioni generando un fermolinea al cliente. Non si può rischiare di mandare al cliente gruppi assemblati e non collaudati funzionalmente, specie quando il cliente è così prestigioso. Il via vai di tecnici si era infittito. Un esercito di graduati che uscivano dai loro uffici come topi avvelenati per andare a morire disidratati da qualche parte. Ringraziai Satana di non fare più parte del controllo qualità. Allora non riuscivo a chiamarmi fuori da nessuna rogna. Potevo stare con i diseredati e deietti e fare discorsi da servo della gleba incattivito e cinico. Mi chiesi se Frank potesse entrarci qualcosa. Ero certo che il Frank c'entrasse qualcosa. Aveva tutta l'aria di uno sveglio, con buone competenze sulle nuove tecnologie. Mi chiesi se fosse possibile sabotare un'attrezzatura così importante durante le ore di lavoro e farla franca. Volsi lo sguardo verso le macchinette del caffè, ma era sparito. Era rimasto solo il muletto parcheggiato senza garbo. Un comportamento che sarebbe stato imperdonabile se a compierlo fosse stato un altro. In mensa nessuno ascoltò le mie storie, nemmeno di striscio. Raccontai che avevano trovato i resti di un paio di part-time in un ripostiglio riservato alle donne dell'impresa di pulizia esterna. Femmine che sanno tenere la bocca chiusa. Una stanza rimasta chiusa per anni. Il part-time, come soluzione contrattuale, è stato abbandonato dalle strategie di tutte le aziende. Tenere in regola un dipendente e usufruirne solo per 4 ore è davvero fuori dalle leggi del mercato. I due cadaveri, insomma quello che ne era rimasto, due straccetti impolverati addosso delle ossa, erano stati rimossi e portati al compattatore. Alla cerimonia non avrebbero presenziato nemmeno i parenti più stretti. Nessuno aveva mai denunciato la loro scomparsa. A tavola non mi si prestò la minima attenzione. Non provocai ilarità. Non era in fondo mai successo, né sdegno o irritazione. Dovevo aver boccheggiato a vuoto, muto come un pesce. La notizia del giorno era il guasto alla stazione di collaudo del Maserati Ferrari. Un fermo linea di 1 ora e mezza. Era stato contattato anche il fornitore dell'hardware. Un nostro tecnico aveva comunicato al telefono in viva voce. Il sudore a rigargli il viso e la maschera del display bloccata come una lapide tombale. Poi il mulettista nuovo pare avesse avvicinato il gruppo del manufacturing in adorazione davanti al totem muto. La divinità bizzosa aveva deciso di impietosirsi alle preghiere dei piccoli uomini solo dopo alcuni armeggi del Frank nella parte posteriore della macchina. «Gli ho messo un dito in culo», pare avesse dichiarato ai primi ammiratori increduli. Non ci potevo credere. A nessuno aveva sfiorato il cervello. Possibile. L'ottusità del popolo è davvero disgustosa. Questa massa di pecore non merita nulla, nemmeno questa prigione maledetta. Meritano solo una mitragliata nei denti. Mi crederete ora? Nessuno comprese che era stato lui stesso a sabotare il PC. Mi sentii un sopravvissuto in un cimitero di cervelli. Ero l'unico salvo o il più folle di tutti. Tra me e il genio corse un'occhiata d'intesa, un lampo. Lui sapeva che io sapevo. E questo ci legava, per quanto possano connettersi due intelligenze superiori. Confermò la mia intuizione con un sorriso da psicopatico e una linguaccia. Il suo ingresso nella sala della mensa fu trionfale. Negli anni 70 un operaio che avesse rimesso in funzione una catena di montaggio sarebbe stato insultato. Tutti alzarono gli occhi dal piatto, parlarono a bocca piena, lui con il vicino di fila parlava d'altro, argomenti futili, donne motori, niente eroismi. Un ragazzo davvero modesto. Decisi un colpo a sorpresa perché a Rigoletto è concesso di essere sgradevole e invidioso. Cominciai ad applaudire. Colpi forti e cadenzati rimbombarono nell'ambiente e zittirono il mormorio degli idioti che mi incollarono gli occhi addosso. Mi arrivarono all'orecchio solo due parole, compatiscilo e trombato. Poi, dopo qualche secondo, un'altra. Pazzo. Mi alzai e appoggiai il cabaret senza aver finito il secondo e mangiato la frutta. La porta era troppo stretta per noi due, sgusciai fuori con una gomitata e una bestemmia. Seduto, all'angolo estremo della sala scorsi Marani, il responsabile della produzione. Non me ne ero accorto. In genere, le alte gerarchie salgono verso le 13. Percorsi il corridoio senza ritorno del tanto peggio tanto meglio, e poi giù, verso le scale per gli inferi. Negli anni vidi tante persone cadere in disgrazia in azienda. Mi ero sempre chiesto perché non facessero qualcosa per fermare lo smottamento e non iniziassero a risalire. Perché non chiedessero una mano alla dirigenza, a un capo reparto o al sindacato centrale, proclamandosi pentiti e recuperati. In quel preciso momento ebbi la piena consapevolezza che è impossibile invertire la rotta e scansare il muro. È un punto di vertigine che immobilizza. Prendi coscienza della fine, ma non riesci a far nulla per evitarla. Troppo pesante il carico di umiliazioni, rende impossibile ogni manovra. Troppo lontana la luce alla fine del tunnel. Tutto è tenebra. Potevo finire male. Potevo finire tra i dannati dello stampaggio, gente che si vede di rado. Timbrano veloci come ratti e si infilano lungo il corridoio verso l'uscita solo dopo aver ritirato il sacchetto con i panini in sala mensa. Hanno sempre lo sguardo basso. Si vergognano di qualcosa che nessuno saprebbe definire. Qualcuno è felice di questa sincronia. Si vantano di privilegi derivanti dalla condizione data. Elencano vantaggi sulla popolazione del turno centrale. Possono andare negli ipermercati fuori dagli orari di punta, hanno più tempo per i lavori domestici e maggiorazioni di paga oraria. Hanno il metabolismo ingannato dai turni. E un giorno qualcuno gli dirà che la plastica ABS è cancerogena, anche se non viene trattata ad altissime temperature.